che si sa è famosa in tutto il mondo. Voi direte per la musica, la cucina, la moda, la... No. Da una ricerca dell'Eurispes è risultato che quello che rende gli italiani unici nel mondo è un'altra arte. L'arte di lamentarsi. Per capire meglio il fenomeno, basta prendere il classico discorso tra due che si ritrovano dopo tanto tempo, aperta parentesi, tempo in cui a nessuno importava nulla dell'altro, chiusa parentesi, e dopo i soliti convenevoli, visto che non sanno più che dirsi, cosa fanno? Si lamentano. Certo che non abbiamo più garanzie per il futuro. Ormai al giorno d'oggi trovare un lavoro. Ma non solo, è che non esistono più gli ideali di una volta. Una volta. E via dicendo, si potrebbe andare avanti così fino a domani. Ma il problema non è tanto questo, quanto cosa diranno i nostri due eroi dopo che si sono lamentati di tutto e di più? Semplice. Non è colpa mia. Se qui tutto va a rotoli. Non è colpa mia. Non siamo paperopoli. Non è colpa mia. Io non c'entro, io non c'ero. Non è colpa mia. Lavoro ce n'è poco. E io che posso farci? I soldi scarseggiano. E io che posso farci? Non è più come una volta. E io che posso farci? Vuoi smettere di lamentarti? Stare lì a guardare quei programmi demenziali con tribune elettorali. Lo diceva già Battiato nel 1980. 30 anni sono passati, non è cambiato una mazza. A me basta un lavoro sicuro, una famiglia. Ecco l'ennesimo economista che guarda solo al suo piatto di minestra, senza vedere fuori dalla sua finestra. Come va? Si tira avanti. Basta con questa solita frase da pensionanti. Il mio è un invito a te e a tutti quanti. Dobbiamo smettere di lamentarci. Lamentarsi. Lamentum senem vuol dire non lamentiamoci, che è meglio.